Dialogo 35. Raccontò Abu Huraira: l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, domandò: chi di voi ha seguito un funerale oggi? Abu Bakr rispose: io. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, domandò ancora: chi di voi ha dato da mangiare a un povero oggi? Abu Bakr rispose: io. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, chiese ancora: chi di voi ha visitato un malato oggi? Abu Bakr rispose: io. Allora l'apostolo di Allah disse: queste opere di misericordia non si combinano in un uomo se non per farlo entrare in paradiso.